di Enea, storie di nuovi italiani, di Valentina Furlanetto. Buona serata, bentornati ai figli di Enea Radio 24. Anche questa settimana una puntata autoprodotta, perché sapete che anche Radio 24 stiamo facendo del nostro meglio in questa situazione di emergenza, ma voi ci continuate a seguire nell'informazione, nei racconti che vi facciamo ogni settimana e ogni giorno nei nostri radiogiornali. In questi giorni di emergenza coronavirus, di reclusione in casa per tutti gli italiani, si sente spesso il commento: siamo in guerra, è la nostra guerra. E chi invece una guerra vera l'ha vissuta, chissà come ci guarda. Mi sembra questa sera opportuno chiederlo a chi lo sa davvero. E allora abbiamo con noi l'ospite di questa sera, che io vado subito a presentarvi. Siamo in collegamento con Riad Kadraoui. Buonasera, innanzitutto benvenuto. Buonasera, buonasera e grazie per l'ospitalità. Riad è un interprete, un traduttore, è siriano di origine, ma ha chiesto la cittadinanza italiana perché ormai da molti anni si trova nel nostro paese, dove lavora, dove si è perfettamente integrato. Si trova nel nostro paese perché è scappato da una guerra e si è ricostruito un futuro. Riad, mi ha colpito molto quello che lei ha scritto su Facebook pochi giorni fa, commentando appunto le nostre paure e la frase che si sente ripetere: è una guerra, è la nostra guerra. E lei che cosa ha scritto? Io semplicemente, siccome ho vissuto l'inizio della guerra in Siria, che è il mio paese, mi ha colpito molto sentire la gente dicendo che sì, ma siamo in una guerra? Sì, ma tutti anche dicono sì. A differenza della guerra che abbiamo avuto in Siria, la casa qua è il posto più sicuro per noi. L'unica cura è di rimanere a casa. In Siria la casa era il posto più pericoloso. Quando c'era il bombardamento, noi cerchiamo subito di scappare da una città all'altra, da una città a una città più sicura. Quando ho visto la gente scappando anche dal nord verso il sud, ovviamente loro hanno avuto paura. Ma di che cosa avete paura? Se uno c'ha già, ad esempio, il virus, di che cosa stai scappando? Anzi, stai colpendo altre zone, quindi era meglio sempre stare a casa. Lei ci ha riportato in scenari che per noi sono, per fortuna, lontani, per fortuna non li conosciamo, però che ridimensionano un po' la nostra paura, perché stare nelle nostre case al sicuro non è la stessa cosa che stare sotto il bombardamento. Lei è uno dei tantissimi, degli 11 milioni di persone che hanno dovuto abbandonare le loro case, tra profughi all'estero, siriani e sfollati interni. I profughi all'estero sono 5 milioni e mezzo. La maggior parte di queste persone stanno nei paesi limitrofi, vicini alla Siria, quindi in Giordania, quindi in Libano, quindi in Turchia, questo è bene ricordarlo. E gli sfollati interni sono 6 milioni. Lo diciamo, lo facciamo questo bilancio anche perché siamo entrati nel nono anno di guerra, con quasi 400.000 morti. L'inizio delle violenze ci fu proprio nella primavera del 2011 e lei era in Siria. Lei è di Erbin, no? In provincia di Damasco. Sì, è provincia di Damasco, che è chiamata Ghouta, che per anni e anni è rimasta in assedio. A differenza di quella guerra, tu in quel momento, quando è cominciata la guerra, la prima cosa che è sparita è il cibo. Qua il cibo ancora c'è, il cibo è diffuso, c'è in tutti i supermercati. Lì non c'avevamo il cibo e non c'avevamo neanche i soldi per comprarlo, perché non si può andare al lavoro. Lì si rischiava per andare al lavoro, per portare un po' di soldi a casa. Qua ti stanno dicendo: stai a casa e ti paghiamo noi, stai a casa, ti togliamo quelle tasse, quella cosa. È molto diverso. Certo. Quello che lei ci sta raccontando ci aiuta a ridimensionare la nostra angoscia, la nostra paura. Precipitare in una situazione come quella in cui ci troviamo è chiaramente difficile per un paese ricco, per una popolazione non abituata a combattere con le privazioni, ma giustamente lei ci riporta con i piedi per terra. La mancanza di una casa sicura e la mancanza di cibo erano le cose che immagino premevano di più su di lei Quanti anni aveva quando è iniziata la guerra in Siria e come è iniziata? Perché cerchiamo di riportare anche un pochino i nostri ascoltatori a quelle proteste popolari, massicce, antigovernative, subito represse nel sangue, poi degenerate in una rivolta armata che dal 2011 ha spalancato le porte a, tra l'altro, i più disparati attori stranieri. Ora in Siria c'è una guerra dove si confrontano anche la Russia e la Turchia, per dire. Ma nel 2011, durante la primavera araba, dov'era lei in Siria? Che cosa faceva? Qual era il suo lavoro? Quanti anni aveva? Avevo 30 anni, lavoravo in un'agenzia di viaggi, ero responsabile della comunicazione con le ambasciate europee, americana, australiana, perché i nostri clienti, giustamente per partire per l'Europa o per gli Stati Uniti, devono avere il visto, che era una cosa complicatissima. Quindi io un po' di informazioni li davo e noi come agenzia li aiutiamo ad avere il visto, poi il resto del viaggio. E quando è scoppiata la guerra, si ricorda quei tumulti, quelle proteste della popolazione allora contro Assad, che tuttora è a capo della Siria, è il presidente siriano. Sì, è il figlio dell'ex presidente, sì. Anche Hafez al-Assad, che diciamo durato fino ad oggi più di 50 anni il loro governo, sia il padre che il figlio. Sì, all'inizio, dopo la primavera araba, che ha avuto un po' di, diciamo, un successo in Tunisia e in Egitto contro Mubarak, la gente si è incoraggiata ad uscire in strada per chiedere un po' di più di libertà. Non c'era subito la richiesta di far cadere Assad, un po' di più di libertà. E quella protesta è stata repressa. Sì, perciò la gente si è arrabbiata e diciamo che le cose sono andate oltre queste richieste. E quando lei ha pensato di scappare? Diciamo, abbiamo avuto nella nostra città un po' di difficoltà a vivere. Si è creato poi l'esercito libero e ha cominciato anche di controllare la città in qualche modo dopo una battaglia contro il regime. Quindi è diventato pericoloso tornare a casa tutti i giorni, perché alcuni giorni mentre sto tornando mi trovo in una situazione di fuoco fra l'esercito libero e il regime e io non so dove devo andare, sai, fra due fuochi. Alcune volte sono andato e di sorpresa c'erano fuochi. Quindi insomma per l'instabilità lei è scappato. E come è scappato? Dove è andato prima di tutto? Un giorno ho deciso di portare tutta la famiglia e andare a Damasco. Questo è il primo passo. Ci siamo rimasti lì a Damasco, abbiamo preso una casa. Io ho cominciato a continuare a lavorare fra Damasco e Beirut. Quindi ho un viaggio di tutti i giorni. Questo viaggio è anche diventato più difficile con le linee di checkpoint che l'ha messo il regime fra Damasco e alla confine. E tutte le volte che vedono che sono di Erbil mi minacciano, perché per loro è una città terrorista. Quindi è alla fine dalla paura di essere preso soltanto perché sono di quella città o di riprendermi, perché stavano anche chiedendo alla riserva, perché chi ha fatto noi abbiamo il servizio militare obbligatorio. Io l'avevo già fatto anni e anni fa. Hanno cominciato a chiedere la riserva perché c'era la guerra, quindi chiedono la gente che sia che deve andare in esercito normalmente, che aveva già fatto. E quindi è diventato più pericoloso. Com'è oggi la città di Erbil? Adesso ha avuto 5 anni di assedio dopo che l'ha lasciata, quindi la gente lì ha vissuto 5 anni di inferno e poi l'ha ripresa il regime e adesso diciamo è tranquilla, non c'è più il bombardamento, ma è una città distrutta, ha bisogno di anni e anni per solo avere il corrente, i telefoni fissi, perché è tutto distrutto, tutte le linee distrutte. Case. Ci dobbiamo fermare, Riad, brevemente perché c'è una piccola pausa, ma torniamo con lei subito. One Express, il pallet espresso. Vi presenta il giorno in cui siamo diventati grandi per uno schiaffo o una carezza. La volta in cui abbiamo conosciuto la morte. Tutte le nostre prime volte, ma anche tutte le nostre ultime. L'estate del primo amore o il traguardo della maratona che non pensavamo di poter tagliare. Ogni nostra storia, piccola o grande, racconta di una linea. Un confine che abbiamo varcato. Una soglia oltre la quale siamo passati, a volte senza accorgercene, altre dopo mesi o anni di lavoro. Linea d'ombra non si limita più a raccontare i vizi capitali, ma tutte quelle storie che hanno segnato un confine nella nostra vita. Le linee d'ombra che nel bene o nel male ci hanno fatto diventare le persone che siamo. Scrivetele in una o due pagine e inviatecele a lineedombra@radio24.it. Noi le prendiamo e ci costruiamo intorno a una puntata. Linee d'ombra di Matteo Caccia, da lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21.30 su Radio 24. I figli di Enea. Questa sera siamo con Riad Kadraoui, siriano di origine, ormai italiano, in Italia da 7 anni, è interprete, è traduttore e è arrivato in Italia da qualche anno dopo che era iniziata in Siria la guerra, nel 2013, quindi 2 anni di guerra ha vissuto in Siria. E ci stava raccontando Riad della situazione a Erbin, che era una cittadina di 70.000 abitanti, dove si faceva una vita tranquilla, con lavoro, scuola, le persone facevano una vita normale, e poi è cambiato improvvisamente tutto. Riad, la sua famiglia vive, la sua famiglia d'origine, i suoi genitori, so che ha delle sorelle anche, vive ancora in Siria? Sì, i miei genitori con 2 sorelle sono ancora in Siria, ma sono a Damasco. E in che situazione vivono ora? È vero che nella zona nord, centro e anche l'est della Siria le battaglie, il conflitto diciamo è finito, perché il regime ha ripreso la maggior parte del paese, è rimasto solo il nord. Ma il problema di nuovo è che la Siria come stato è assediato attualmente dalla maggior parte dei paesi, quindi tutte le cose per trovarla anche c'è la difficoltà, o la devi pagare il doppio o il triplo. Ad esempio le bombole del gas, la benzina, ci sono più di 1 chilometro, 2 chilometri di file per rifare la benzina. Il corrente, tali in continuamente del corrente. Il crollo della lira siriana, che tutti i giorni scende, che prima della guerra 1 euro valeva 70 lire, adesso 1000 lire, quindi puoi vedere la differenza. Quindi tutte queste cose sono difficoltà, ma anche noi qua abbiamo difficoltà di mandarli soldi. Se hanno bisogno, se per l'affitto, per mangiare, perché non ci sono comunicazioni e non è facile mandare soldi in Siria. Riad, so che sua sorella e anche il marito di sua sorella sono stati in prigione, come mai? Il marito di mia sorella. Sono entrati dove lavorava a Damasco, in una sartoria, hanno attaccato questo posto e hanno chiesto a tutti 2 cose, i documenti e cellulari. C'erano un po' di foto della rivoluzione, quindi la bandiera di 3 stelle e alcune cose. Da quel momento è sparito. E non l'avete più visto? Non l'abbiamo più visto. Mia sorella è riuscita a visitarlo solo una volta in un prigione, poi di nuovo si è sparito. E fino ad oggi non sappiamo dove si trova, perché è da 5 anni ormai. Si pensa che può essere che è morto, vive, non sappiamo nulla, perché se dovesse essere a Fednaya, che è quella prigione molto famosa, sappiamo la storia delle foto di Cesare, quindi non si pensa molto che sia vivo ancora. Lei ha deciso di venire in Europa e adesso vive in Italia, ma non era il primo paese dove voleva venire, no? So che lei voleva andare in Svezia, poi come mai invece si è fermato in Italia? Sono venuto in Italia perché avevo un gruppo di medici che volevano visitare l'Europa perché avevano un congresso. Poi sono tornato in Siria, tutti mi dicono, ah, ma sei stupido, come fai a tornare? Ho detto no, torno perché avevo ancora il lavoro, non avevo nessun problema, non erano ancora cresciuti i problemi. Poi quando ho deciso di lasciare la Siria definitivamente, sono ritornato all'ambasciata italiana per chiedere un altro visto e ho avuto la fortuna di averla perché non è facile averlo, il visto. E poi sono partito, sono venuto in Italia. Siccome non conoscevo nessuno in Italia e avevo un amico che viveva in Svezia, io non sapevo nulla del trattato di Dublino, di primo paese o il paese che hai il visto e che ti ha dato il visto, è l'unico che ti può prendere in mano la richiesta d'asilo. Perciò sono partito per la Svezia e dopo 4 mesi mi hanno spiegato del trattato di Dublino, ho detto sì, accetto per tornare in Italia. Sono tornato in Italia e ho cominciato da zero. E lì la chiave di volta è stata imparare la lingua, l'italiano. Sì, mi sono trovato in difficoltà, ma anche in inglese, perché non è che tutti parlano l'inglese e nessuno parla l'arabo, e allora tu devi imparare l'italiano perché giustamente sei nel paese che parla italiano. Quindi subito ho partito con imparare l'italiano, e quello che mi ha dato una gran mano che avevo per caso studiato anche lo spagnolo in Siria. Quello che sto aspettando attualmente è di avere la cittadinanza, vivo con altri due ragazzi siriani. Quindi in tre abbiamo una casa, ognuno ha il suo lavoro e mi trovo benissimo. La Siria la sente ancora come casa sua o è diventata l'Italia casa sua? Adesso ho il cuore italiano. Mi ha commosso tantissimo quando in America hanno detto italiani vi amiamo e hanno fatto il fumo degli aerei con i colori della bandiera italiana. E lei si è sentito italiano? Sì, in quel momento sì. Gli italiani vivono anche una situazione abbastanza paradossale, quella di non poter andare in tanti altri paesi. Siamo stati respinti alla frontiera di alcuni paesi che hanno chiuso le porte agli italiani. Il passaporto italiano a un certo punto sembrava aver perso valore. È un'esperienza invece che un siriano vive da tantissimi anni. Sì. E noi come siriani che abbiamo il passaporto che vale di meno, diciamo il più basso con l'afgano al mondo, quindi noi abbiamo già prima della guerra non più di 10-15 paesi che ti lasciano entrare. Quindi è una differenza molto... Noi dicevamo anche come battuta, diciamo, il siriano deve avere il visto anche per andare in bagno, perché era molto difficile. Adesso anche l'italiano deve avere il visto anche per andare in bagno. In realtà può andare solo dalla cucina al bagno in questo momento. Però è un'esperienza paradossale che stiamo facendo, no? E la stiamo facendo assieme. Lei in questo momento diceva sente il cuore battere in Italia ancora di più nella difficoltà. Sì, e questa difficoltà che noi stiamo adesso combattendo un virus, dobbiamo sapere che il problema è che la cura non c'è. Quindi dobbiamo sentire quello che ci hanno detto gli esperti. State a casa. Ok, mi sento come gli altri hanno sentito. Vogliamo stare a casa perché a casa siamo protetti. E questo lei ci insegna, è una bella cosa, una gran bella cosa, è già una grande fortuna. Sì, certamente, perché attualmente è l'unica via per riabbracciarci in futuro. Perché... E a differenza di quello che stava succedendo in guerra, noi quando scappavamo dalle nostre città ci pensavamo che dopo una settimana, due, ci torniamo. Quindi io 2-3 volte sono scappato di casa andando a Damasco e dopo che si è tranquillizzata la situazione sono tornato a casa mia. Quindi, e poi dopo che non si viveva più, ho deciso di andare e non tornare più. Invece qua al contrario, noi dobbiamo stare a casa per rivederci, per riabbracciarci, per riuscire a tornare alla nostra vita normale. Riad, lei che è scappato dalla guerra per venire in un paese sicuro, ora si trova in una situazione insicura. Lei ha paura? No, perché il paese è sicuro. Lei crede nella capacità di questo paese di rialzarsi, nella forza del Servizio Sanitario Nazionale italiano? Certamente, io mi fido tantissimo degli esperti, dei medici, dei infermieri, tutta la sanità di questo paese, perché è una dei migliori al mondo. Io mi ricordavo che gente andava dalla Siria prima della guerra per curarsi in Italia, in Germania, in Francia, perché sono i più capaci. E dico, meno male che quando ho diffuso questo virus, ad esempio, non ero in un paese non capace, come il mio, in Siria. Adesso Assad ha rinviato le elezioni legislative che si dovevano tenere il 13 di aprile, le ha rinviate a maggio. Sembra che, anche se non ci sono dati, perché non si registrano casi di infezione, però potrebbero essere centinaia i contagi in Siria, e con un sistema sanitario al collasso potrebbe essere davvero una strage, ancora di più che la guerra. Sì, noi diciamo che l'unico paese al mondo che non c'ha ancora il virus è un paese che comincia con la lettera S e mangia il falafel, per non dire, è una battuta che si dice fra i paesi e fra i cittadini siriani in Siria, per non dire che il nostro paese che ci sta mentendo, perché in Siria non si sono registrati dei casi. E questo è molto pericoloso, perché sicuramente c'è. Grazie a Riad Kadraoui per essere stato con noi questa sera. Buona serata. Grazie a voi, grazie. Grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto di questa puntata gestita in autogestione, perché anche noi, sapete, lavoriamo da casa per lo più e cerchiamo di fare del nostro meglio per informarvi, per tenervi sempre aggiornati e per raccontarvi anche delle storie. Vi do appuntamento a sabato prossimo alle 21 sulle frequenze di Radio 24. Restate con noi. Buona serata da Valentina Furlanetto. Ciao.